quererte y tú, la inspiración soy tú, el sueño mío soy tú. Tú, racchiudi nel candor, le gioie dell'amor, con dolce turbamento. Se un dì baciarti al fin potrò, quel dì tesor non scorderò. Tu, immensamente tu, soltanto e sempre tu, sarai per me la vita. Sarai per me la vita.